Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, otto minuti, inizia la prima puntata post pasquale, diciamo così, di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, superata la pausa pasquale, subito i temi sono emersi. Mi riferisco al DL Lavoro, dove il governo ha posto la fiducia, ve l'hanno raccontato ampiamente i nostri GR. Ci sono perplessità, è un eufemismo, resistenze molto forti anche in alcuni partiti che appoggiano la maggioranza. Mi riferisco a Scelta Civica, ma anche al nuovo centrodestra. Di questo parleremo e ascolteremo varie posizioni, nel massimo rispetto in questo caso della par condicio, perché è un tema anche prevalentemente di politica. Dopodiché invece ci occuperemo delle misure prese dal governo, perché nel corso del fine settimana, e mi riferisco chiaramente al bonus da 80 euro, nel fine settimana, dicevo, sono emerse alcune criticità. Da un lato, insomma, il fatto che il bonus non riguarderà gli incapienti, quindi chi ha redditi fino a 8.000 euro di fatto ne è escluso, né le partite IVA, ma questo era già più previsto, ma ancora le coperture, perché al di là del ricorso minacciato dalle banche, perché il prelievo viene portato dal 12 al 26%, quello sulla rivalutazione delle quote in Banca Italia, è emerso, cosa che in qualche modo era trapelata ma non con certezza, che l'aumento invece della tassazione sulle rendite finanziarie dal 20 al 26% varrà anche per i conti correnti e i conti postali, quindi sono esclusi solo i titoli di Stato. E poi c'è il tema del pagamento dei debiti della pubblica amministrazione. Al momento sono stati sbloccati 8 miliardi di euro per il pagamento dei debiti, che sono decisamente meno rispetto ai 13 miliardi previsti nel DEF. Una misura questa che comunque dovrebbe portare a 600 milioni di extra gettito, ma vuol dire che insomma quasi la metà dei pagamenti previsti dal DEF solo due settimane fa non arriveranno, 8 miliardi invece che appunto 13. La borsa oggi positivo, l'avvio più 1,40%, l'avvio chiaramente post pasquale, Parigi più 1,15%, Francoforte più 1,90%, Londra più 1% e l'America più 0,50%. Tra i titoli segnalo oggi in evidenza Telecom Italia più 3,80%, in questo momento è il miglior titolo tra quelli a maggiore capitalizzazione, Iux più 3,70%, Telecom chiaro che sale dopo i poteri conferiti al nuovo presidente Recchi, la delega conferita a Recchi, Iux dicevo più 3,60%, Mediaset più 3,12%, anche su Iux c'è un report favorevole, Fiat più 3%, Azimut più 2,50%, Unipolsai più 2,5%, Buzzi Unicem più 2,40%, Unicredit più 2,30%, come Mediolanum e il Monte dei Paschi, Generali più 2% come ST Microelectronics e Pirelli. Negativa oggi di poco, pochissimo, Eni meno 0,11% e TOZ meno 0,11%, per cui i cali sono veramente, veramente contenuti. L'ultima cifra prima delle notizie in breve, è quella per i vostri sms, 349-238-6666, e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Partiamo come sempre dall'economia internazionale. Nel secondo trimestre dell'anno l'economia tedesca crescerà meno del previsto. I primi tre mesi del 2014 hanno fatto registrare un aumento netto del PIL grazie anche a un inverno mite, ma insomma Però in Germania il fisco ha registrato a marzo un record storico nelle entrate. Le casse federali, quindi anche quelle dei Länder, delle regioni tedesche, 55,36 miliardi, 7% in più rispetto a un anno prima, grazie all'altissima occupazione. Ancora, se oggi Benoît Cœuré, il membro francese della Banca Centrale Europea, ha detto che c'è ancora margine per ridurre i tassi di interesse, però dico, sono lo 0,25%, non penso che cambierebbe tantissimo nel portare lo zero, ma tant'è. Oggi il Financial Times fa un calcolo di quanto stanno pagando i vari paesi dell'Euro Sud di interessi sul debito. Allora, sono tutti in calo, però l'Italia continua a avere, essere in cima alla lista. Pagheremo quest'anno 78,7 miliardi di interessi sul debito, poi segue la Spagna con 32 miliardi e via gli altri paesi, complessivamente 130 miliardi. Dico in calo perché, stando alle ultime stime, noi risparmieremo quest'anno rispetto all'anno prima qualcosa come 9 miliardi di euro, se lo spread si manterrà a questi livelli tutto l'anno. Ma insomma, la stima è di 9 miliardi di euro di risparmio di interessi sul debito, che potrebbero diventare 15 l'anno prossimo, ma restano tantissimi, ripeto, quasi 79 miliardi di euro. Allora, per quello che riguarda il bonus Renzi, ne parleremo anche dopo, perché c'è un'intervista oggi su Sole 24 Ore al ministro Padoan. Però faceva notare in questi giorni, ieri se non ricordo male, l'Istat, che le famiglie senza reddito da lavoro, quindi quelle che non beneficeranno degli 80 euro, perché sono sotto anche gli 8.000, sono 1 milione. Tra loro c'è 500.000 di coppie con figli. 213.000 invece sono monogenitore. Ecco, dico già che, fermo restando l'accertamento fiscale, tutti i controlli fiscali, oggi partiva il redditometro, perché sappiamo che purtroppo in questo paese ci sono anche nullatenenti che poi scopriamo avere case e patrimoni da milionari, però obiettivamente manca il tassello, perché 500.000 di coppie con figli che non beneficeranno di nulla, mentre se tu guadagni 23, 24, 25 mila euro lordi, che non è un gran stipendio, siamo d'accordo, ma benefici di questo bonus, obiettivamente c'è una distorsione. Il ministro dell'economia Piercarlo Padoan ha detto, riferito agli 80 euro, il bicchiere è mezzo pieno e si riempirà. È mezzo pieno e noi pensiamo di riempirlo col passare del tempo, via via che le misure si rafforzano, diventano veramente permanenti e la base che beneficia del taglio si allarga. È un'operazione importante di vaste dimensioni che richiede qualche mese per essere messa a punto. Ancora, ripeto, vedo molti messaggi su questo, ne parleremo alle 18.10. In busta paga arriveranno, ripeto ancora una volta, 80 euro per la fascia 24-26 mila euro lordi, poi si azzera a 28 mila euro. Le coperture 3 miliardi 200 milioni dalla spending review, tagli dalla sanità, non sono tagli lineari. 1 miliardo e 8 dall'aumento dal 12-26% del prelievo sulla rivalutazione delle quote in delle banche dentro la Banca d'Italia. Le banche minacciano ricorso perché si tratta di una disposizione retroattiva. Ora, se ci sono immagini per il ricorso, è giusto che le banche utilizzino questo loro diritto. Detto questo, faccio notare che le banche hanno avuto un grosso vantaggio dalla rivalutazione delle loro partecipazioni dentro la Banca d'Italia, che erano ferme al 36. E qui non si può solo dire è un abuso quando c'è aumenta la tassazione e non riconoscere che con la rivalutazione delle quote delle banche italiane in Banca Italia le banche hanno ottenuto un vantaggio di centinaia di milioni di euro. E poi 600 milioni sono attesi dalla misura che riguarda la rivalutazione dei beni delle imprese. Le aziende che hanno infatti rivalutato beni patrimoniali dovranno versare la relativa importo in un'unica rata e non potranno più spalmarla in tre rate a interessi zero. E quindi le imposte originariamente previste per il 2015-2016 saranno anticipate al 2014. 350 milioni arriveranno dalla revisione del catasto agricolo. Allora, noi siamo spesso vicini ai temi degli agricoltori, abbiamo avuto spesso ospite i loro rappresentanti, però su questo, attenzione, il catasto agricolo è fermo al 1939, andrà anche rivisto, visto che l'agricoltura non è più la stessa e forse alcuni terreni magari adesso messi a vite che valgono molto di più, al tempo valevano molto poco. È chiaro che vi sarà un aumento sull'IMU, sui terreni, verrà anche sfoltito il numero dei comuni esenti. Padovano oggi ha anche ricordato come, per quanto riguarda il confronto internazionale, in gran parte dei casi i manager pubblici italiani sono pagati come proponiamo noi o meno, quindi erano tra i più pagati fino ad adesso tra i manager pubblici europei. A proposito dei pagamenti dei manager, le retribuzioni medie dei banchieri, in questo caso sono assolutamente manager privati, è pari a 62 volte quella dei bancari. Lo sottolinea lui, cioè questo è il dato del 2013, mentre nel 2012 era di 53 volte, nel 2000 era di 42 volte. In calo invece lo stipendio dei presidenti, meno 8,3%, ed è pari a 23 volte quello di un dipendente, era 25 volte nel 2012. Per cui la cosa interessante, lo dico anche qui col massimo rispetto al mondo bancario, però mi dovete spiegare come mai le 11 principali banche italiane abbiano perso nel 2013 22 miliardi di euro. In molti casi sono stati appunto e mettere a bilancio crediti che tu non potrai più esigere, no? Perfetto, non sto dicendo che sia colpa di una cattiva gestione, sto dicendo che hai dei crediti complici la crisi economica che non riesci più ad esigere, ma complessivamente perdi 22 miliardi di euro, ma gli stipendi degli amministratori delegati delle banche italiane aumentano del 17% dal 2013 al 2012, pari a 19,2 milioni. Sono società private, sono spesso quotate in borsa, quindi decideranno gli azionisti, il consiglio di amministrazione, i consiglieri indipendenti, ci mancherebbe. Faccio solo notare, visto che lo facevamo anche nei confronti delle banche d'affari americane, che c'è una certa discrepanza tra stipendio, anzi divergenza, tra stipendio degli amministratori delegati delle banche e bilanci delle banche stesse. Nel frattempo, Intesa San Paolo, Unicredit hanno siglato un protocollo con A&M e KKR per sviluppare una soluzione innovativa finalizzata a ottimizzare le performance e massimizzare il valore di un selezionato portafoglio di crediti in ristrutturazione. Che cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente che praticamente verranno cedute la gestione di questi crediti difficilmente esigibili a KKR e AM, e sostanzialmente si profila una bad bank privata, quindi una banca dove confluiscono tutti i crediti non tanto in sofferenza ma che probabilmente ormai sono svaniti come possibilità di recupero. Idea questa di una bad bank privata di cui sia Intesa San Paolo che Unicredit discutevano da tempo. Altro tema che tratteremo è quello di Alitalia, è l'ennesima giornata decisiva per Alitalia. Alle 15 è iniziato il Consiglio di Amministrazione che dovrà dare risposte alle condizioni poste da Etihad per l'ingresso nell'azionariato, ossia Abu Dhabi chiede un taglio dell'organico fino a 3.000 unità, una rinegoziazione del debito con uno sconto fino a 400 milioni. È un po' più rassegnata Unicredit rispetto a Intesa San Paolo, che ancora tiene botta su questo, però attenzione alle banche possono tirare la corda fino a un certo punto, perché cosa succede poi? Se Etihad non entra, qui ci ritroviamo con Alitalia che fra poco si è bruciata l'intero aumento di capitale, continua a perdere sui 700.000 euro al giorno. Tra le richieste anche la liberazione degli slot di Linate a danno di Malpensa, che dovrebbe essere sempre più scalo merci, nel senso di Alitalia, e sempre meno passeggeri, e un impegno del governo a servire Fiumicino con l'alta velocità ferroviaria. Una buona notizia prima di passare al decreto del governo sul lavoro: gli ordinativi in crescita per le macchine utensili, sono le macchine che servono a produrre altre macchine, su cui l'Italia vanta numerose leadership. E dicevo, ordini in crescita del 15,2%, tra l'altro grazie soprattutto agli ordinativi interni, più 79%. È un ottimo segnale che però, diciamo, va confrontato con un periodo disastroso, ma è importante vedere che questa volta la domanda più forte è arrivata dal mercato interno e non dalle esportazioni. 349-238-6666 per i vostri sms e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Primo tema, che è interlocutorio, devo dire oggi è tutto un po' interlocutorio anche all'Italia, però è quello che è successo sul DL Lavoro. Allora, è successo un po' di tutto. Il governo ha posto la fiducia sul decreto lavoro, questo dopo una giornata molto, molto difficile, nel senso che vi erano state anche ieri, ma oggi soprattutto, prese di posizione distinguo, critiche da parte di due partiti che sostengono la maggioranza, e mi riferisco soprattutto al NCD, al nuovo centrodestra, da un lato, e dall'altro anche alla lista civica di Monti. Partiamo dalle dichiarazioni di questa mattina del ministro Padoan, che riferendosi alla riforma Fornero ha detto: non è che non vada più bene, è che le condizioni recessive sono peggiorate. Non è che non vada più bene, è che nel frattempo le condizioni recessive da allora sono peggiorate. Purtroppo vediamo che c'è una ripresa ancora fragile, però positiva, ma questo stenta a tradursi in più occupazione. Una riforma come quella presentata dal governo e portata avanti dal ministro Poletti accelera il beneficio in termini di occupazione della ripresa che si sta consolidando. Ancora, per quello che riguarda i punti in discussione, allora non possiamo ricordare tutti i punti del DL Lavoro, ma insomma le modifiche più contestate sono la riduzione delle proroghe consentite per i contratti a tempo in 36 mesi, che passano da 8 a 5, e l'obbligo per le imprese con oltre 30 dipendenti di assumere il 20% degli apprendisti. Gli altri emendamenti riguardano la conferma e l'ampliamento del diritto di precedenza per i lavoratori e le lavoratrici in maternità con contratto a termine nelle future assunzioni a tempo indeterminato con la stessa mansione. E per quanto riguarda l'apprendistato, viene ripristinata una quota di formazione pubblica. Tra l'altro, a fine marzo, l'Aula della Camera aveva approvato la proposta di legge che pone fine alla pratica sulla base della quale al lavoratore, più spesso la donna lavoratrice, si chiede di firmare una lettera di dimissione al momento dell'assunzione, che può essere utilizzata poi dal datore di lavoro. Però Elisabetta Fiorito ha seguito da questa mattina tutto il dibattito parlamentare. Elisabetta, buonasera. Buonasera Sebastiano, sì. Dunque, ci sono state parecchie perplessità, per dire così, essere quasi eufemistici, da parte del nuovo centrodestra da un lato e di Lista Civica dall'altro. Elisabetta. Sì, di Scelta Civica, ma semplicemente si contrasta quelle che sono le modifiche volute da Cesare Damiano del PD in commissione qui alla Camera, misure che secondo Scelta Civica e secondo il nuovo centrodestra, ma anche secondo Forza Italia, non garantirebbero abbastanza flessibilità in entrata, quelle modifiche che hai poi spiegato tu poc'anzi Sebastiano. Insomma, c'è una lotta interna al Partito Democratico tra un'area riformista che è quella renziana e un'area invece più di sinistra, che è anche rappresentata in questo momento da Cesare Damiano, che però ha poi la maggioranza in Parlamento, ed è passata questa linea. Quindi c'è stato questo incontro, questo vertice con Giuliano Poletti, il ministro del lavoro, Maria Elena Boschi, il ministro delle riforme, i capigruppo di maggioranza. Poletti aveva anche proposto una mediazione che è stata bocciata dallo stesso Partito Democratico, per cui tutto viene rimandato al Senato, perché il governo ha posto la questione di fiducia sul testo uscito in commissione alla Camera, fiducia che verrà votata domani e che verrà votata anche dal nuovo centrodestra, e praticamente al Senato, dove i numeri sono più vantaggiosi per gli altri partiti piuttosto che per il PD, perché non c'è il premio di maggioranza, si cercherà di rendere di ritornare quasi al testo originario. Ecco, questo è un po' il conquibus. Allora, a questo punto il governo ha messo la fiducia, i tempi, Elisabetta? Allora, i tempi sono: domani si vota la fiducia, alle 13.30 ci sono le dichiarazioni di voto, alle 15.20 c'è il voto, che sappiamo è ritualmente per chiama nominale, quindi si impiega 2 ore per il voto. Il giorno dopo c'è il voto sul provvedimento, e ricordiamo, perché alla Camera c'è questo bizantinismo, che il voto è disgiunto tra fiducia e provvedimento. Allora, grazie Elisabetta Fiorito, e su questo tu hai sentito alcuni esponenti della maggioranza. Partiamo innanzitutto da Roberto Speranza, che è il capogruppo del PD alla Camera, ovviamente da un giudizio positivo sul testo arrivato in aula. C'è stata una discussione positiva, costruttiva, ci si è confrontati su alcuni punti. Alla fine la scelta del governo è la scelta di mettere la fiducia sul testo uscito dalla commissione. A noi sembra un testo equilibrato, e quindi niente, voteremo questa fiducia con assoluta convinzione, come sempre. Al Senato che cosa succederà? Al Senato ci sarà una discussione di merito, come c'è stata qui alla Camera, e dovranno essere i gruppi parlamentari del Senato a capire qual è l'equilibrio migliore. A noi competeva fare il primo passaggio qui alla Camera, l'abbiamo fatto, mi pare che il testo sia un testo positivo, il giudizio del Partito Democratico è un giudizio assolutamente buono sulla mediazione alla quale siamo arrivati. Ma non è che ha vinto la sinistra di PD, come dicono tanti? Ma no, guardi, sono discussioni sempre molto molto parziali. Il tema del lavoro è assolutamente delicato. A me sembra che abbiamo trovato un punto di intesa che dà qualche opportunità in più alle imprese, senza però trasformare la flessibilità in precarietà. Io penso che questo sia un punto decisivo e ci fa fare un passo avanti sul terreno delle riforme. Noi ci batteremo perché appunto la flessibilità non diventi mai precarietà. La fiducia il governo la mette sul testo della commissione, sul testo uscito dalla commissione. Così appunto il capogruppo del PD Speranza, diverso ovviamente l'analisi che ha fatto il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Renato Brunetta, ha detto che questo governo non ha più la maggioranza e i numeri per governare, altro che treno veloce, corre solo per andare a sbattere, hanno messo la fiducia e già concordato dei cambiamenti al Senato, questo è vergognoso, così Brunetta. Invece, più delicata la posizione del nuovo centrodestra, perché appoggia la maggioranza. Ha detto infatti il capogruppo Nunzia De Girolamo: non rinunciamo alla battaglia, voteremo la fiducia alla Camera, ma non rinunciamo a dare battaglia al Senato per difendere il DL Poletti nella sua versione originaria. E poi ha aggiunto anche il capogruppo Maurizio Sacconi, capogruppo del nuovo centrodestra al Senato: al Senato ci sarà maggiore lealtà al governo, è un'attitudine del Senato, siamo per attivare rapidamente il disegno di legge e ci dedicheremo a far valere le nostre ragioni al Senato. Va bene la mediazione di Poletti, però attenzione ma il PD non ha detto di no a questa mediazione. Sentiamo Sacconi. Io credo che ci siano le condizioni al Senato per confermare sostanzialmente il testo del governo, cioè il testo base che il Partito Democratico alla Camera aveva modificato. Non dimentichiamo che oggi noi abbiamo accettato un'ipotesi di mediazione del ministro Poletti e il Partito Democratico ancora una volta si è contrapposto al suo governo, al suo ministro, al suo presidente del Consiglio, al suo segretario nazionale. Quella mediazione Poletti era da noi accettata, riproporremo quelle stesse modifiche che il ministro Poletti aveva ipotizzato condividendo le nostre proposte, ma condividendo la tesi del governo, perché insisto, tutte le nostre proposte sono nel senso di tornare quanto più al testo originario e alla sua spinta propulsiva nei confronti della nuova occupazione. I numeri come sono al Senato? A vostro favore? Ma vedi, i numeri sono soprattutto riempiti dell'attitudine dei parlamentari. Io credo che ci sia, mi auguro, confido, spero che non ci siano le rigidità ideologiche che si sono manifestate nella commissione lavoro della Camera dei Deputati da parte del Partito Democratico. Cioè, per far capire a tutti, il nuovo centrodestra e anche Scelta Civica vorrebbero un ritorno alla versione originaria del disegno di legge sul lavoro, che rendeva più flessibile e meno rigida, come poi è stato fatto dagli emendamenti, l'ingresso nel mondo del lavoro. Allora, una delle critiche più forti alla riforma Fornero, che possiamo dirlo con tranquillità, è stato un disastro. È vero quello che dice anche Padoane, cioè le condizioni sono ulteriormente peggiorate, ma è un disastro da diversi punti di vista, è un disastro nella gestione, non riguardava in senso stretto quello dei famosi prepensionati che si sono trovati nel limbo di coloro che stanno sospesi, ma è stato un disastro anche perché ha irrigidito moltissimo l'ingresso nel mondo del lavoro. Dicevo, loro vorrebbero tornare a una versione più mobile. C'è un punto che per esempio è sostenuto da Scelta Civica, che era prevista nella disegno di legge, ossia rendere i contratti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato uguali sostanzialmente nei primi 3 anni. Perché lo dico? Perché anche per quelli a tempo indeterminato viene data la possibilità al datore di lavoro di interrompere, o meglio, di interrompere il rapporto di lavoro con un corrispettivo economico, come avverrebbe per quelli a tempo determinato, e in questo modo renderebbe più appetibile, secondo chi propone questa norma, il contratto a tempo determinato, cioè sarebbe meno diverso per i primi 3 anni da quello a tempo determinato. Lo ha spiegato Irene Tinagli di Scelta Civica ed esperta di tematiche del lavoro al nostro Simone Spezia oggi a Effetto Giorno. Le modifiche apportate sostanzialmente reintroducono alcuni vincoli per cercare di mettere un po' un freno a quella che per alcuni era suonata come una, diciamo, liberalizzazione eccessiva del contratto a tempo determinato, e certamente non è il modo migliore secondo noi per tutelare i lavoratori. Noi avevamo proposto delle tutele magari di tipo economico, degli indennizzi di cessazione, un accompagnamento ai servizi, ma non crediamo che reintroducendo vincoli burocratici per le imprese o aprendo spazi per contenziosi eccetera che sia il modo migliore per tutelare i lavoratori, spaventando magari anche le imprese. Ma il vero nodo per noi è non vediamo il motivo per separare la riforma del contratto a tempo determinato da quella a tempo indeterminato che è stato rimandato alla legge delega, e noi avevamo fatto la proposta di tenerli insieme, perché la vera flessibilità di cui c'è bisogno in Italia non è tanto quella sul tempo determinato, che infatti è ormai il contratto prevalente, ma quella sul contratto a tempo indeterminato, è quella che è urgente. Basterebbe cosa ipotizzate voi per il contratto a tempo indeterminato? Guardi, noi avevamo proposto un emendamento per anticipare in questo decreto alcune parti, cioè che per i primi 3 anni del contratto a tempo indeterminato il datore di lavoro potesse cessare il rapporto con un indennizzo economico che crescesse al crescere dell'anzianità di servizio, e lo proponevamo sia per il contratto a tempo determinato che indeterminato. In questo modo i due contratti avrebbero più o meno la stessa appetibilità per il datore di lavoro, e quindi ci sarebbe in un certo senso anche un incentivo ad assumere a tempo indeterminato, perché per i primi anni c'è una maggior flessibilità. Senta, quindi era un modo per stimolare le assunzioni a tempo indeterminato e dare la flessibilità necessaria. Allora, è arrivato poco fa anche una dichiarazione del ministro Poletti, che ha detto: nessuno può prendersi la responsabilità di non convertire in legge il decreto legge sul lavoro, è troppo importante per le imprese. Vediamo se riusciamo a farlo ascoltare. Io una cosa la dico in termini molto chiari: credo che nessuno possa prendersi la responsabilità di mettere a rischio la conversione di questo decreto, perché per le aziende italiane questo è un decreto molto importante che si aspetta da tempo, e oggi veramente può capitare di tutto fuorché che si trovi il modo di far sì che questo decreto non venga convertito. Quindi io credo che la responsabilità di tutti i partiti sarà tale, certo, da fare la parte che deve essere fatta in Parlamento, e quindi la discussione, il confronto e anche gli emendamenti laddove questi vogliono essere presentati, ma dentro tempi e con modalità tali da consentire la conversione. Adesso andiamo col metodo della pubblicità, poi commentiamo la borsa. Devo dire che ho un paio di notizie, però una sul CNEL, avete già capito, ma anche sulle banche, perché qualcuno mi scrive: ah, lei attacca le banche. No, allora diciamola tutta, ne parliamo dopo il meteo. Ho detto invece che aumentare gli stipendi degli amministratori delegati, cioè capitano cose un po' strane nel mondo bancario, crescono così tanto gli stipendi degli amministratori delegati e invece si riducono anche bruscamente gli sportelli, o una o l'altra, secondo me. Non che le due cose siano pari come effetto economico, ma non è un bel segnale vedere il più 19% negli stipendi degli amministratori delegati, mentre annunci, se ho ben visto, 1500 sportelli da chiudersi. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Si è risvegliato il nostro lupo, non il gufo, perché allora mi scrivono alcuni, immagino, direttamente interessati. Lei, come al solito, non capisce nulla, vabbè, questa non è una notizia, perché la chiusura degli sportelli bancari è un'operazione redditizia, allora è giusto che chi l'ha avviata venga premiato. Cioè, mi faccia capire. Adesso, io non sto contestando che le banche fanno bene a tagliare 1500 filiali, solo considerando i grandi istituti. Le filiali cambieranno, vi sarà meno cassa, più consulenza, tutto bene. Sto solo dicendo, nel momento in cui tagli 1500 filiali e in cui lo stipendio dei bancari cala, perché aumenta quello degli amministratori delegati? Il dato è le 11 principali banche italiane hanno aumentato lo stipendio dei loro amministratori delegati del 17%, 19,2 milioni, nonostante complessivamente 22 miliardi di euro di perdite. Allora, pensate che lo stipendio medio di un banchiere, di un amministratore delegato, è diventato 62 volte quello dei bancari, rispetto, quindi del dipendente, rispetto alle 53 volte del 2012. Ok? Allora, si può dire che va bene tagliare per creare redditività, che va bene mettere a bilancio le perdite quando sono crediti non più esigibili, ma che forse ha meno senso un aumento del 17%? O devo anche premiarti perché chiudi gli sportelli? Non lo so. O il ragionamento vale solo per altri? No, io penso che si possa fare in generale, fermo restando, come ho detto, che sono enti privati e decideranno loro, i loro azionisti, il consiglio di amministrazione, che cosa fare. Ancora il CNEL, c'è il CNEL che, voglio dire, adesso parliamoci chiaro, la crisi non ha saputo prevedere il fondo monetario, le banche d'affari, figuriamoci il CNEL. Il CNEL è uno di quegli organismi che andrebbe chiuso, e anche perché costa sostanzialmente 20 milioni di euro l'anno, non serve, lo dico con massimo rispetto per i suoi membri, a nulla in questo periodo, nel senso che le analisi non mancano, le analisi economiche, ma soprattutto spende i soldi in maniera un po' strana, perché è vero che da quando è diventato uno dei simboli degli enti inutili, dal 2011 ha tagliato le spese e molti lavori prima affidati all'estero vengono adesso prodotti in casa, con un risparmio di 8 milioni di euro. Però pensa, la media dei componenti del CNEL è intorno ai 65 anni, ci sono anche un paio di consiglieri ultra ottantenni. Ma c'era la cosa, nessuno ha meno di 50 anni. Sarà forse questo il motivo per cui il CNEL ha tra i suoi consulenti anche un geriatra. Ma non è un esperto di demografia a cui affidare le curve, no, è praticamente un medico di fiducia che una volta a settimana si reca alla sede del CNEL per 41.000 euro lordi l'anno. Che non è tantissimo, però anche questo ci chiediamo il perché debba esserci pure un medico. Anche perché non è tanto, perché se si sommano i compensi dei 152 incarichi affidati all'esterno dal CNEL a partire dal 2008, emerge che in quel periodo il capitolo consulenza e contratti costava 4 milioni e mezzo di euro. Addirittura ci sono incarichi generici come 41.000 euro per una consulenza in materia di economia internazionale o 10.000 euro per conoscere lo stato delle politiche euro-mediterranee. Ma voglio dire, io con massimo rispetto per il CNEL non ricordo un rapporto del CNEL capace di modificare l'analisi socio-economica di questa società o dell'area euro del futuro. Per favore, dai. A proposito però, e poi la chiudiamo che vado sulla borsa, di consulenze strane. Noi spesso parliamo della Sicilia perché ci offre materia prima tutti i giorni, però qualcuno mi deve spiegare. Io sono contro le province autonome, l'ho detto molte volte, penso che non abbia più senso continuare a... È vero che la provincia autonoma di Bolzano e di Trento le gestiscono bene, la Val d'Aosta, insomma, qualche notizia l'abbiamo avuto in questi anni, anche il Friuli, però sono contro le province autonome, basta. C'è un vantaggio competitivo nei confronti degli imprenditori che stanno in Piemonte piuttosto che in Lombardia o in Veneto, che è antistorico ormai. Ma perché dobbiamo ancora pagare perché per le minoranze? Chi se ne frega, ormai siamo in Europa, non c'è neanche più il passaporto, basta. Useranno bene e in maniera efficiente i soldi dei loro contribuenti. No, lo dico perché appunto l'obiezione è sempre ma la provincia autonoma di Bolzano o di Trento usano bene i soldi. Beh, aspettiamo un attimo, perché nel 2013 la provincia di Bolzano ha speso 8.366.000 euro per la bellezza di 4.705 incarichi esterni. Voi direte, fondamentali, boh, insomma, 8 milioni sono tanti. Ma io vorrei capire perché si sono pagati 13.400 euro a Francesca Curi, che non ha nessuna colpa, li ha ricevuti, per corsi di bon ton per dipendenti provinciali. Ma che sono così cafoni i dipendenti della provincia di Bolzano? No? E poi c'è il bon ton in ufficio con due corsi da 1.600 euro cada uno, poi il bon ton nelle mail, cioè non mandare... E qui 2.200-2.700 euro per corso, e poi meno faticoso il bon ton come approfondimento, che lascia aperto qualunque tipo di scenario. Ancora il corso da 2.000 euro per come si scrive una mail, oppure la comunicazione attraverso la mail, fondamentale. Ma la cosa che mi interessa, e qui sono in conflitto di interessi, cioè hanno pagato alla provincia di Bolzano anche 3.300 euro per un corso articolazione linguaggio corretto parlando alla radio. Potevate fare un'offerta anche a Radio 24, magari ottenevate un prezzo migliore. C'è anche il corso di voce parlata. Voce parlata, esiste anche la voce non parlata, vabbè, la voce parlata è per esprimersi in pubblico. Quindi è fondamentale anche questo, ma si può andare avanti con il resto. Ci sono varie consulenze esterne, no? Si fanno corsi su come gestire una telefonata di lavoro, di power talking, dimmi cosa intendi, otterrai quello che vuoi, o di prevenzione del burnout, la sindrome che produce stress emotivo da disadattamento al lavoro. Non penso che in provincia di Bolzano il burnout sia così diffuso. Poi c'è un corso a Carl Albert Cobb, ex dirigente della sanità, non ha mai smesso di lavorare, altro che pensionato, tra consulenze e assistenza in cassa, solo nel 2013 27.000 euro, a cui si sommano altri 54.000 euro di consulenze. Ma volete mettere il corso di Lucina Vronska di 2.000 euro, amore, sessualità e relazioni nel contesto interculturale? Se lo sa Cruciani la invita subito. E ancora consulenze legali della società elettrica Alto Tesina, 493.000 euro. Insomma, per favore, la penisola è molto lunga, lo diciamo spesso, ma è così corta quando bisogna usare i soldi dei contribuenti. Adesso il traffico, e poi andiamo con la borsa, poi all'Italia, e poi il governo, il bonus 80 euro, ma anche il DL lavoro, pro e contro, l'intervista di oggi al ministro Padoan sul Sole 24 Ore. Diretta adesso la borsa, no, non posso più parlare della provincia autonoma di Bolzano. Non ho detto che usi male i soldi, oddio, in questi casi sì, e sappiamo tutti che c'è una maggiore efficienza sul territorio, non ci vuole molto rispetto a altre regioni del sud. Questo non è né razzismo né leghismo, è un dato di fatto. Ho detto però che io sono contrario e penso che siano anacronistiche tutte le province autonome, avevano un senso dopo la guerra, quello che volete. Dopodiché, se ancora stiamo a ragionare, se e gli altoatesini di lingua tedesca vogliono andare con l'Austria, ma di cosa stiamo parlando con l'euro nel 2014? Voglio vedere se l'Austria dà gli stessi vantaggi. Ci piava. La borsa, buono l'avvio di settimana, più che buono, più 1,50% Milano, più 1,20% Parigi, più 2% Francoforte, più 0,80% Londra, con in evidenza soprattutto Telecom Italia, più 4%. Da lì partiamo con Ceo Condina, Radio Cori sulle 24 ore. Buonasera Ceo. Ciao, buonasera a tutti. Telecom. Telecom oggi molto bene, accelerato nel primo pomeriggio per poi chiudere come miglior titolo a più 4,03%. Pesa sicuramente, è un incentivo agli acquisti, il fatto che la società ha una nuova governance, è stato nominato settimana scorsa il nuovo consiglio di amministrazione con 13 membri, di cui addirittura 10 indipendenti, il più alto numero di membri indipendenti nella storia di Telecom Italia. Quindi tra gli operatori c'è chi sottolinea come questa, appunto, questo passaggio in assemblea avvicini sempre più questa società diciamo al modello della public company, anche se diciamo che in questa direzione vanno fatti anche ulteriori passi. Sicuramente gli operatori hanno apprezzato comunque questo. Beh, questo diciamo lo si vede chiaramente dal movimento sul titolo. Molto bene oggi anche Fiat, più 3,5% e Iux, che sì, fa il 3,30. Fiat è sicuramente un, diciamo, un titolo tra virgolette ciclico, quindi è stato premiato dagli operatori a ruota a seguito del, diciamo, del rialzo dell'indice principale. Per quanto riguarda Iux invece ci sono degli elementi più contingenti, qui ci sono le indiscrezioni su un'offerta, su un interesse del private equity per Mira, per la casa di moda Roberto Cavalli. Diciamo che è una prospettiva che riscalda il settore del lusso, anche se è altrettanto vero che oggi alcuni titoli del lusso come Tozzo, Salvatore Ferragamo sono poi rimasti un po' ai margini dei rialzi. Sì, ancora, oggi c'è stata invece una inversione di tendenza su Campari, all'inizio non tanto premiata, abbiamo raccontato in diretta con il numero uno l'acquisizione di Averna, oggi invece più 2,20%. Eh sì, il mercato sta cominciando a fare un po' diciamo i conti su quella che potrebbe, su quelle che potrebbero essere le nuove prospettive del gruppo, che ricordiamo ha una fortissima rete di distribuzione in tutto il mondo, con l'acquisizione appunto dei brand del gruppo Averna. Si scommette sul fatto che Campari possa realmente spingere il fatturato e la marginalità grazie a questo nuovo marchio in tutto il pianeta. Ti piava. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vorrei chiudere l'approfondimento di borsa e poi passare dall'Italia, anche perché pochi istanti fa è terminato il consiglio di amministrazione. Ciao Condina, dicevamo oggi bene anche altri titoli, tra cui bancari Unicredit più 2,60 e Risparmio Gestito come Azimut più 2,80, Mediolanum più 2,40, Uniposai più 2,30, Monte dei Paschi più 2,20, Intesa San Paolo più 2%, più deboli invece alcune popolari, penso alla Pop Milano invariata, UbiBanca invariata. Sì, i titoli bancari più grossi sono stati favoriti oggi anche dal calo dello spread che è arrivato ai nuovi minimi a 155 punti base. Per quanto riguarda la Popolare di Milano, come dicevi tu, poco sotto la parità c'è il tema, insomma, del downgrade da parte di Standard & Poor's. Si riprende in chiusura il Banco Popolare, che era stato negativo, chiude a più 1%. Ricordiamo che qui c'è stata una copertura pressoché totale dell'aumento di capitale. Ecco, un ultimo titolo che vorrei commentare con te è Eni, meno 0,30%, nulla di che, il calo però in una giornata positiva spicca. Sì, spicca perché c'è un po' di pessimismo del mercato su quello che potrebbe essere l'utile del primo trimestre. Ricordiamo che Eni non fa soltanto, diciamo, esplorazione ma anche raffinazione, che è poi un business che ultimamente è un po' in difficoltà, ma fa anche vendita di gas. Il calo dei consumi, appunto, di gas e dei consumi elettrici in Italia rende un po' più pessimisti gli analisti del mercato sulla redditività del primo trimestre. Comunque nulla di particolare, come dicevi tu. Allora, migliori e peggiori in assoluto: Isagro più 26%, Ameria Tecnimont più 15%, ITWay più 8,5%, fronte opposto KR Energy meno 4,70%, Philips meno 4%, Sunshine Capital Investors meno 4,55%. Grazie a Ceo Condina di Radio Corriere Sole 24 Ore. Adesso praticamente uno dopo l'altra, sia la vicenda d'Italia che il travaglio del governo, ma anche le perplessità emerse sul fronte del bonus. Del bonus lavoro. Terminato pochi minuti fa il consiglio di amministrazione, recitano le agenzie, bocche cucite tra i consiglieri che hanno lasciato l'edificio dell'Italia, e nessuno ha voluto commentare su come sia andata la riunione. Bocche cucite. Ora, fare l'interpretazione della bocca cucita è un po' difficile, però insomma, in ballo cosa c'è? C'è la lettera mandata da Etihad, che vorrebbe entrare, o meglio è disponibile a entrare pagando circa 500 milioni di euro comprando il 50% di Alitalia, però chiede un taglio degli organico fino a 3.000 unità, una rinegoziazione del debito con uno sconto e quindi a svantaggio delle banche, principalmente Unicredit e Intesa San Paolo, fino a 400 milioni, e sembra più morbida la posizione di Unicredit, invece ancora più dura quella di Intesa San Paolo. Poi la liberalizzazione degli slot di Linate a danno, tra virgolette, di Malpensa, che nell'intenzione di Etihad diventerebbe, soprattutto per quello che riguarda la presenza di Alitalia, di Etihad, scalo merci con l'aggiunta della rotta Milano-Malpensa-Shanghai, e poi un impegno del governo a servire Fiumicino con l'alta velocità ferroviaria. Gianni Dragoni, fammi tu l'interpretazione delle bocche, buonasera a te, delle bocche cucite, perché insomma da un punto di vista esegetico non lo so come si possa interpretare una bocca cucita, è meglio o peggio? Prego. Di solito la comunicazione poi viene lasciata alla società a un comunicato, la riunione era difficile perché sappiamo che Etihad aveva posto un ultimatum, anzi aveva detto il lavoro finora fatto purtroppo non ci consente di andare avanti nella nostra proposta, quindi la palla è nel campo dell'Alitalia, delle banche che sono azioniste e creditrici, Intesa San Paolo la più esposta e quindi quella più diciamo nella posizione più difficile per accettare le condizioni di un pretendente che dice io non ho nulla da perdere, l'Alitalia che ha bisogno di nuovi capitali, di un partner forte. Quindi il consiglio d'amministrazione, come hai detto, è finito da poco, ma non la vicenda, non questa storia che probabilmente oggi non sarà quando sapremo di più, adesso non sappiamo ancora cosa abbia deciso il Consiglio, non sarà comunque certamente un passo definitivo. Il Consiglio comunque dovrebbe dare delle risposte più complete se l'Alitalia vuole tenere aperto il canale della trattativa. Ecco, dei vari punti che ho elencato, quale ti sembra, stando alle fonti che tu hai, quello più critico per gli attuali azionisti di Alitalia? E finanziario del debito riguarda la sistemazione del debito verso le banche, ci sono almeno 400 milioni, almeno stiamo ripetendo questa cifra, ma può anche essere che quando conosceremo di più scopriamo che c'è anche qualcosa, o un numero più alto, o ci sono anche, sospetto ci siano anche degli altri aspetti che non sono ancora usciti bene. Cioè Etihad non vuole comunque, vuole tirare una riga col passato, per passato si intende la situazione dell'Alitalia CAI fino a ottobre 2013, quando è partito l'aumento di capitale di 300 milioni, quindi quel debito che c'era prima verso le banche, sappiamo che sono almeno 400 milioni, chiede Etihad che venga cancellato, cioè portato eventualmente in capitale, ma capitale di una società che per il momento perde, quindi le banche dovrebbero dare fiducia nella possibilità che in futuro piano piano questi soldi rendano, nell'immediato dovrebbero cancellare un credito. E anche la sistemazione di contenziosi con Carlo Toto, l'ex proprietario di Air One, e ci sono altre pendenze, e quindi questa è sicuramente la partita più difficile. Poi c'è quella degli esuberi, i sindacati finora sono rimasti silenziosi, anche un po' spaventati, ma forse qualcosa sanno. È una partita impegnativa, ma credo sia più gestibile quella degli esuberi, anche se è più dolorosa per i lavoratori. Un'ultima domanda, Gianni, i tempi a questo punto, perché è chiaro il ritardo, ormai c'è stato, la vicenda andava chiusa secondo i primi annunci andava chiusa già 2-3 settimane fa, ma fino a quando si può protrarre? E chi non ha indicato nella lettera ultimatum, non ha indicato un termine, di fatto la trattativa comunque è, se non vogliamo dire interrotta, è sospesa, è ferma. Quindi fino a quando si può protrarre? Il termine estremo sono le condizioni di Alitalia, quanto possono consentire di reggere questa situazione, visto che continua ad avere una situazione certamente difficile e anche di perdite, e bruciare cassa con il traffico di questo periodo, magari la situazione è un po' meno peggio che in altri momenti, ma io credo che nell'arco, siccome anche con il governo stanno cercando di dare delle risposte, di trovare delle risposte convincenti per Etihad, credo che siano poche settimane, se non pochi giorni, in cui si deve avere un chiarimento. Pochissime settimane. Sì, vedo che molti scrivono sulle banche, ma conviene alle banche tirare la corda? No, non conviene, perché è chiaro che in questo momento la soluzione peggiore è restare col cerino in mano, cioè se Etihad si sfila, a questo punto ti resta un gruppo che perde 700.000 euro al giorno e che ha appena fatto un aumento di capitale, ma rischia di bruciarlo. È però anche del tutto legittimo che le due banche principalmente coinvolte, Intesa e Unicredit, cerchino di ottenere il minor sconto possibile sui debiti, visto che sono loro che hanno anticipato i soldi. Poi su Intesa San Paolo sappiamo le critiche al tempo, la gestione passera, perché Intesa era molto esposta con Air One e l'operazione avvantaggiò più Air One che all'Italia, l'abbiamo detto moltissime volte, i vari aspetti così che potevano suscitare più di un dubbio in quell'operazione, però ormai siamo in un'altra fase di Alitalia in cui occorre che qualcuno metta la liquidità, metta i soldi. Grazie a Gianni Dragoni, il traffico. E poi ultimo aspetto, il ministro Padoano oggi in un'intervista su Sole 24 Ore, nel giorno in cui il governo mette la fiducia sul DL lavoro. E 19 minuti, ultima parte di Focus Economia. Allora, oggi ministro Padoan sul Sole 24 Ore sulla spesa, scelte selettive, abbiamo fatto proposte ampie, poi Renzi ha usato una base più ristretta, alla cassa integrazione il nodo da affrontare. Questo nel giorno in cui continuano le polemiche sul cosiddetto lato oscuro del bonus, ossia il fatto che gli 80 euro famosi in busta paga non arriveranno per chi ha meno di 8.000 euro, quindi chi ha redditi fino a 8.000 euro, i cosiddetti incapienti, e nelle partite IVA. Sulle partite IVA lo si sapeva già, sugli incapienti forse ci si poteva tenere qualcosa di più. E poi sorprese di molti risparmiatori, vedo, che dicono: ma come, riportate la tassazione dal 20 al 26% anche sui conti correnti? Sì, anche sui conti correnti. L'unica parte esente sono i titoli di Stato. Le banche minacciano invece ricorso sull'aumento dal 12 al 26% del prelievo sulla rivalutazione delle quote in Banca d'Italia. Ho già fatto presente però che quella rivalutazione aveva dato un grosso aiuto, legittimo, perché le quote erano ferme nel 1936, se non ricordo male, ma aveva permesso alle banche di avere una voce importante nei bilanci. Allora, il ministro Padoan sul bicchiere mezzo pieno, gli 80 euro che si riempirà. È mezzo pieno e noi pensiamo di riempirlo col passare del tempo, via via che le misure si rafforzano, diventano veramente permanenti e la base che beneficia del taglio si allarga. È un'operazione importante di vaste dimensioni che richiede qualche mese per essere messa a punto. Fabrizio Forché, l'autore del colloquio con il ministro Padoan, che io continuo a chiamare Padoan come la Lorenzin, la chiamo Lorenzin e non Padoan. Buonasera, vice direttore. Perché si dice Padoan? Lo so, ma non, su questo guarda, io la penso come Stella, ma non vorrei entrare su altri programmi, diciamo, come taglio. Allora, Fabrizio, che è anche vice direttore del Sole 24 Ore, Padoan rivendica, diciamo, il bicchiere mezzo pieno, nel giorno in cui però il governo è stato obbligato a mettere la fiducia sul DL lavoro. Allora, è più tortuoso il percorso poi sugli 80 euro che rischia di scontentare tutti gli incapienti o quello sul DL lavoro in cui il nuovo centrodestra e Scelta Civica vogliono tornare sostanzialmente alla versione originaria? Ma domanda difficile. Sicuramente il primo test è questo sul lavoro, è il primo da arrivare ed è un test estremamente importante, perché si capirà se la maggioranza ha una sua tenuta su provvedimenti che evidentemente non sono condivisi dall'intera maggioranza e non sono condivisi soprattutto da una parte importante del PD. Ricordiamo che il PD è una strana bestia in questo momento, per il quale nella direzione e nel partito Renzi ha una stragrande maggioranza e quindi la sua linea passa con facilità. Quando va in Parlamento le parti si invertono e c'è una posizione interna che non è del tutto collaborativa con Renzi, che ha la maggioranza e quindi qualunque provvedimento rischia di camminare con grande difficoltà. Sul lavoro secondo me è un test di estrema importanza per Renzi, perché se dimostra di tenere in Parlamento su un provvedimento che comunque è ostico per la sinistra del partito, è chiaro che questa è una prova di forza di cui si gioverà il bonus degli 80 euro, ma soprattutto le riforme istituzionali, a cominciare dal Senato. Quindi questo è il filo rosso che lega il DL lavoro con il bonus degli 80 euro. Scusa, ma va bene gli emendamenti e le modifiche, ma non penso che il PD sia così, cioè quando hai un voto di fiducia, se non becchi la fiducia vai a casa, no, cioè no, sarebbe un suicidio del PD, non sarebbe forse la prima volta. La fiducia domani effettivamente non è in discussione, non è in discussione nemmeno sul voto del nuovo centrodestra. Il nuovo centrodestra ha alzato molto la tensione in prospettiva di questo voto, ricordiamoci che siamo sotto elezioni, per cui da parte del nuovo centrodestra è anche giusto che, come dire, le posizioni politiche vengano difese in maniera anche chiara davanti all'opinione pubblica. Però davanti alla fiducia sul voto di domani non ci sono dubbi. Però è vero che al Senato la partita si riaprirà e credo ci sia già anche un'intesa per modificare il decreto e tornare quindi a una versione un po' più favorevole, diciamo, a quello che sostiene il nuovo centrodestra e anche alla versione originaria sostenuta da Renzi. Ecco, per quello che riguarda invece la tua intervista o colloquio, per meglio dire, con il ministro Padoan, non è che abbia aperto tantissimo sulla parte degli incapienti. Allora, io vedo molti messaggi, lo dico così, tengo assieme le due cose, che ricordano o sottolineano, da un lato, che se tu, che non mancando il quoziente familiare, tu potresti essere praticamente un monoreddito con due figli a carico che guadagna 30.000 euro, non becchi nulla, perché il beneficio si esaurisce dopo i 28.000, e invece avere due genitori con 20.000 euro di reddito ognuno, che, o 24.000, che invece hanno il massimo del beneficio. E poi c'è il tema, diciamo, degli incapienti, Fabrizio. Sugli incapienti Renzi si era sbilanciato in una conferenza stampa senza che in realtà gli uffici, in particolare il Ministero dell'Economia, avevano mai dato un parere particolarmente favorevole su questo. È chiaro che tu puoi allargare la platea di questo bonus di 80 euro se hai risorse sufficienti a coprire queste misure. Per avere risorse sufficienti tu devi fare scelte politiche molto coraggiose sulla spending review e sui tagli di spesa. A me sembra che invece, come si è conclusa questa partita, ha dimostrato ancora una volta che sui tagli di spesa anche un Presidente del Consiglio così coraggioso, così argomentoso come Renzi, in realtà si ferma un passo prima di quello che sarebbe necessario poi per liberare risorse sufficienti a coprire tagli di tasse molto significativi. La storia di questi tagli di spesa mi sembra un po' questa: eravamo partiti da bozze del decreto o perlomeno da proposte di Cottarelli che erano molto più ampie, e poi alla fine le scelte politiche sono state molto più restrittive. Padoan lo dice nella sua intervista: abbiamo fatto proposte più ampie, poi il Premier, nella sua autonomia politica, nella sua libertà giusta di scelta politica, ha deciso tagli su una base molto più ristretta. Per cui dice alla fine si è arrivati a un compromesso. Speriamo che non sia, diciamo, il viatico dell'approccio del governo sulla spending review, perché in realtà tutti siamo ormai concordi nel dire no ai tagli lineari che fanno più danni che altro, ma voglio dire, la spending review deve avere poi una sua efficacia soprattutto sulla spesa improduttiva. C'è chi cita, vedo i messaggi, la spesa per beni intermedi che è di circa 160 miliardi di euro all'anno. L'elemento su cui Padoan nella tua intervista, nel tuo colloquio, ti è sembrato più così perplesso o scettico, Fabrizio? Ma no, più che altro appunto lui in qualche modo ci tiene a dire che sui tagli di spesa il menù poteva essere più ampio, perché la scelta politica alla fine è stata quella di restringere quel menù, e perciò se non si è riusciti a fare di più anche sulla platea dei più poveri, in sostanza, quelli che noi chiamiamo gli incapienti, è perché si sono state fatte queste scelte politiche restrittive. Insomma, se tu sui tagli di spesa decidi di tenere fuori la sanità, decidi di tenere fuori le pensioni, decidi che anche sugli stipendi alla fine fai un tetto generalizzato ma non fai i tetti intermedi che erano quelli che ti davano davvero, liberavano davvero più risparmi e quindi più risorse, è chiaro che tu poi non hai le risorse sufficienti a fare un intervento generalizzato. Ricordiamo anche, e questo Padoan lo sottolinea, che per quest'anno c'è una quota di copertura che è ancora una tantum, e quindi poi per il 2015 le risorse andranno trovate, certo, andranno trovate con la legge di stabilità per il prossimo anno. Ed è su questo che interviene anche l'Unione Europea, perché vuole coperture solide ma soprattutto strutturali. Questo lo evidenzia bene oggi sempre su Sole 24 Ore Dino Pesole. Grazie al vice direttore del Sole 24 Ore Fabrizio Forché. Grazie a voi. E la puntata odierna di Focus Economia termina qui. Da Sebastiano Barisoni auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.